microfono, lo stesso che ho io, così così un po', certo non è di qualità, se li metti a destra lì migliora molto, e sì, vabbè, se li metti a destra è un'altra cosa, ma quello se li metto lì all'esterno pompa anche di più. Io ho messo la scheda vento, che ho messo, l'ho tolta dal baracchino di Giancarlo, il mio cognato, ce l'ho messa nel baracchino tuo, certo che il baracchino di Giancarlo era un casino. E allora mi ha fatto da 2 a 1. Adesso l'unica cosa che devo fare è fare la modifica per avere i canali di sotto. E basta. Ho visto la modifica è stata fatta per avere 40 canali. Adesso devo mettere un pulsante per avere i canali di sotto. E io poi rilancio California. Allora ricordati Antonello. Se tu vai sul 10 e metti fill, fa dal 30 al 39, cioè dal 10 al 19 sono dal 30 al 39. Per andare sul 40 devi andare tra l'1 e il 2, tra l'1 e il 2 c'è una certa posizione per cui ti diminuisce il QRM e sei sul 40 lì, capito? E rimane abbastanza, riesci a trovare proprio la corrispondenza e rimane stabile là. Quindi è come se ci avesse i 34 normali classici più dal 30 al 40, in poche parole. E guarda che ho staccato il coso, quindi il 40 me lo segna, me lo dà pure. Ah, ho capito. Meglio così. Va bene Antone, io adesso vado, dai, vi saluto. Mi guardo Striscia Notizie e poi qualche film, speriamo ci sia un film interessante, boh. Ok signori, buona serata, buon proseguimento di serata, buon tutto, ci sentiamo, ciao Antonè. Ciao Marco, ci sentiamo alle prossime. A domani. Ehi, ciao anche a Franco, dai, ciao, buona serata a tutti. Ehi, sogno. Scusa, se mi dica cosa, guarda io mi sono sbaglio, la FM500 è stato tu, sei giusto, non sbaglio. Ecco, di cosa? La FM500 ecco, non è ecco. E se ce ne vuole tu me l'hai detto, preciso identico. Cazzo, mi hai chiesto lo smetto, ma allora sei rincoglionito sempre. Tu stai usando l'apparecchio uguale al tuo, la FM500S. Ecco non è questo qua, non è mica quello che avevo una volta, no, che stava ecco eccetera eccetera, questo è il 118, l'eco ce l'ha, ricorda il 4000 tra l'altro. Anche questo non era 15 secondo te, per la tua, questo è il 15 watt a tutti i punti. Ho cambiato il cavo di alimentazione, tutto, ma no, 15 watt sono di tutti. 15 watt sono di tutti, no, io ho fatto la modifica nel coso, nelle bobine. $19.69 montavano una volta, ma non è assolutamente vero, lascia perdere. Se non c'è un pilota come si deve, è inutile che c'è $19.69, non serve a nulla. È diversa la cosa. Dipende da apparato a apparato. Hai capito? Cambia la posizione del collettore, emettitore e base. Quindi è come se, come lo metti, piglia va in corpo. No 45 metri, 45 metri si andava una nuova volta con la svetta e gli apparecchi. Ah, è appunto, io invece ho la scheda, se voglio la piazza qua e vado nei 200 canali addirittura. però non l'ho toccata ancora, devo controllare come installarla, dopodiché la piazza. Già ho capito, cioè. Dipende dalla caratura del coso, se è stata fatta nell'apparato, hai capito? Perché se ti ricordi bene, gli apparati tipo 548 SX modificato, dovevo metterci la media frequenza a quella del 34 canali, se no non funzionavano 200 canali. Quando mi guardi a 120 saliva tutto, saliva. Allora mi toccava appena appena. E una volta che si sbaglia poco a poco si è collegato, perché se va tutto fuori per questo. Addirittura quello che ho io da uno all'altro c'è una bella differenza, uno segna 5, 4, l'altro segna 15. Ti do la testa. Quello che ho io è preciso, sì, perché sarà da tanto di frequenza fino a 200, se non mi ricordo male. Quello è militare, quel tipo di rosmetto. Vedi, il mio è molto, molto meglio. Questo è quello lì, una famiglia tra la prima, tra uno all'altro, e quindi mi fa preciso. E passare quel vostro che non c'ha 10 anni, no? Ne ha più di 20 come minimo, ok? Non mi conosco l'antica, ho fatto così. Io per me mi regalavo con quello lì, ma se regalare con quello, a me il vasco che mi dava il tevolo mi dava la capimiglia, tale uguale, 100 euro, 100 euro mi dava. Tu bisogna avere, ognuno c'ha il... Cioè per andare bene ci vorrebbe un business, ma un business costa 500-600 euro, ma regalo proprio così in giro. C'è tutti i cosi in oro, quindi ogni frequenza c'ha il suo, mi hai capito, non è così facile, c'è una specie di bobina, metti di lento e tagli, ogni bobina c'è una frequenza, però quello era micidiale, ai tempi che furono, quello non sbagliava, tutto placato in oro era. No, non lo fanno più. No, non lo fanno più quello lì, ma non ho più visto la verità in giro. La capi 1000. C'è il 1000, quello del KG, ma la capi 1000 non l'ho vista. Certo che esiste sempre. Antonè, TM1000 è il vecchio, la KP1000 è nuovo, ce l'hanno tutti, lo vendono tutti. Allora, solo vedo lui, si la fa così, così se lo ordina è a posto. Appunto per quello. Marco. Ehi, un attimo che sono qua, stavo navigando al computer e stavo sentendo... Già c'è, guarda, il meno che lo vende, cioè il prezzo più basso per la KP1000 è da, aspetta com'era, fammelo ricordare, mi pare da CRT Elettronica, è un'azienda siciliana, lo fa pagare meno di tutti, perché certi lo fanno pagare molto più caro, molto più caro. Ma vai. L'HP 1000 è grandetto come strumento, fa da quadratore, da rosmetro, a wattmetro, regge 1000 watt e costa oltre i 100. E tu con cosa stavi confondendo? Col, non lo so con quale, boh. Eia. Guarda, per pagarlo una certa cifra è meglio pigliare roba MFG, roba a un certo punto era dematoriale. Però 27 e non solo. Io per esempio ho un MFG, diciamo che è un rosmetro a quadratore veicolare, con lo strumento un po' piccolo, a raghi incrociati, cioè vedi sia il watt che le stazionarie nello stesso momento, e funziona però da 1 MHz fino ai 60 MHz. Diciamo che è HF, ma fa anche la 27 ovviamente, e quello è abbastanza fedele. Certo, non è eccezionale come fedeltà, perché lo strumento è un po' piccolino, veicolare, però la voglia si accorda, anche la rete del letto ti accorda. No, negativo, è l'unico rosmetro buono che mi è rimasto. Tutti gli altri, ne ho preso uno ZG, no? Il classico rosmetro wattmetro, no? È una, posso dirlo a parole mie, è una gaggata, non segna stazionarie. Adesso ti dico il modello. Dai, riprendete voi un attimo. Qua, quello mio. Il TB1000 è ben pratico quello che sei cercato tu, solo che sarà TB1000 quello che ho già visto, sono gli strumenti con quello che ci noi. Potenziometri uguale potenza, credo che fossero i lineari, magari ho detto potenziometro del Mach Gain, dell'EF Gain, e mi ha detto i potenziometri non li puoi usare, ma vai, fatti una, già capito, no? Gente che non ne sa. Guarda, i vicini sono così, basta che vedano l'antenna sul tetto, tutti i disturbi che avranno al televisore, che non c'entrano con te, ti diranno che sei tu. Ci sono passati tutti, tutti, anche Pomponio, tutti, Gianni Lopiruna, tutti e tutti. È sempre la stessa cosa. E anche se tu sei con l'omologato degli omologati, ti diranno sempre che disturbi. La gente così, è così, paracchino uguale disturbi, no, non glielo togli dalla testa alle persone. E purtroppo, pensa, io ho l'antenna sul palo, io ho l'antenna TV sul palo dell'antenna del baracchino, anche con lineare non disturba niente, non vedi un quadratino. Io te l'appoggio. Comunque nel caso di Natalino sono i vicini che hanno l'antenna messa male, cioè loro vedono male la TV anche quando Natalino non è in radio, anche quando sta mangiando, quando sta dormendo, quindi sono loro che hanno l'antenna messa male, eppure niente. Pensa che Natalino si è offerto a uno di questi, si è offerto di fargli l'impianto nuovo lui d'antenna, niente, non vuole l'impianto nuovo, ma non vuole nemmeno che Natalino moduli, quella è bastardaggine proprio, eh. Poi sai, lì sono assassini vecchi, no? Un po' nel quartiere popolare, poi sono tutti uomini duri lì, vanno a subito si vogliono afferrare, cazzo. E purtroppo Natalino non si vuole compromettere, giustamente. Guarda, io quando c'era un periodo che disturbavo quello di fronte, ma sai perché? Perché il tecnico, quando gli ha messo l'antenna nuova della TV, primo era un pasticcione perché gli ha puntato l'antenna, anziché a Monteoro l'ha puntata sull'antenna mia, secondo ha sbagliato a fare non so cosa, ha fatto uno schifo il lavoro, e terzo gli ha messo, anziché un'antenna UHF a pannello, gli ha messo di quella spina di pesce ultra direttiva per zone remote, che sono tipiche che si attirano i disturbi. E in effetti lui, quando entravo al baracchino, non vedeva la TV. Poi, quando gli ho detto che l'antenna era direzionata non a Monte Oro ma male, ha richiamato il tecnico, no? E il tecnico ha riconosciuto di aver fatto un pasticcio, ma tu pensa che per mettere un'antenna TV 300 euro, gli ha chiesto, che sono 600.000 lire, delle vecchie lire. Quando noi con un amico, a parte il materiale, chiedevamo 50.000 lire per mettere un'antenna TV, cioè a parte il materiale, no, l'antenna il primo, il secondo, il cavo, eventuale nel palo, le zanche, non so, il palo c'era già, 50.000 lire, adesso arrivano col camice bianco, arrivano con la targhetta tipo NASA, no, capito, 600.000 lire, delle vecchie lire per mettere uno schifo di antenna TV, è un furto. Ma adesso si credono tutti, capito, tecnici della NASA. Dico una, poi ti saluto. Il tecnico ha riconosciuto di aver fatto un pasticcio, no? Allora finalmente gliel'ha messa a posto l'antenna. Beh, oltre i 300 euro già speso, oltre che il casino l'avevo combinato, lui gli ha chiesto altri soldi. Guarda se non è il colmo. Da allora non ho mai più disturbato. Però, ripeto, è la colpa dell'antennista, che era un CPTU. Buonanotte, buona carica batterie e buon tutto. Dai, ciao, ci sentiamo. Antonella, anche a te, saluti e ci sentiamo alle prossime. Dai, ciao a tutti, ciao. Io, ciao Franco, ciao Marco, buonanotte, ciao, ho messo la roba a cena, la cucino, e dopodiché mi chiedono molte volte, insomma di quello sto crestando, ho fatto tutto, andiamo domani. Ehi, ciao a tutti, ciao. Ciao.